Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, è arrivato il nostro momento, siamo pronti per ascoltare i titoli del nostro sommario con Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Sommario. Epatiti, se le conosci le eviti. La nostra salute dipende anche dall'ambiente in cui viviamo. SOS Zanzare. Oggi parliamo di fegato e mi piacerebbe molto che ciascuno di noi alla fine della trasmissione avesse le idee più chiare sul modo in cui proteggere questo organo così importante, su come evitare quindi di farlo ammalare, ma oggi parleremo anche di terapia, ci sono sicuramente delle novità, la ricerca ha fatto grandi passi avanti e in linea con noi oggi possiamo approfittare di un grande esperto che è tornato a trovarci, il professor Massimo Colombo, direttore della divisione di gastroenterologia all'Ospedale Maggiore di Milano, Policlinico, Università degli Studi. Professor Colombo, che piacere, buongiorno e bentornato. Buongiorno dottoressa, il piacere è tutto mio, grazie. Ricordo il nostro numero verde 800 24 0024 e i messaggi invece al 349 238 6666. Professor Colombo, sul fegato se ne dicono e se ne sentono un po' di tutti i colori, insomma è un organo chiacchierato, forse perché è unico come numero e importanza. Di lui più o meno sappiamo, e lo sappiamo tutti, non occorre essere medici, che non ama gli alcolici, i grassi, i chili di troppo. C'è chi dice che soffre addirittura per le arrabbiature. Insomma, detto così, sembrerebbe facile proteggerlo. Beh, in realtà quello che fa la differenza è il riuscire a tenere uno stile di vita adeguato. E non so, poi magari ne parliamo in modo più articolato. Volentieri. E cioè difendendosi da diete incongrue, eccessivi consumi di alcol e stando lontano dai virus dell'epatite, per esempio. Il fegato entra anche in molti modi di dire, si dice a fegato quando una persona ha coraggio e in linea con noi abbiamo un amico che di fegato ne ha da vendere, è un velista divenuto famoso per le sue navigazioni in solitaria, fresco di un nuovo successo, infatti ha vinto l'edizione 2009 della regata che è partita dalla Francia, dalle Sable, arrivate alle Azzorre e ritorno, l'avete già riconosciuto, è Giovanni Soldini che saluto e ringrazio per essere con noi, ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, si dice che per avere fegato ci voglia cervello e questo Giovanni credo che valga sia per affrontare imprese rischiose a cui tu sei avvezzo, ma credo valga anche quando si tratta proprio di tutelare la salute di questo organo. Tu che cosa fai per il tuo fegato, Giovanni? Ma non so, cerco di vivere in maniera sana, di non mangiare porcate più di tanto, insomma di avere una dieta decente e basta, spero sì. Che gli batti. Io direi di sì, professor Colombo. Beh, Giovanni Soldini è un grande sportivo, sicuramente no? Una vita assolutamente sana, anche se è una vita direi super attiva, che proprio è un uomo di grande fegato. E non c'è dubbio, ma soprattutto lui in modo volontario e talvolta forzoso quando fa queste super attraversate in solitario è costretto ad un controllo molto stringente del suo peso corporeo e oggi noi sappiamo che questo è per esempio un approccio molto utile ad allontanare potenziali malattie del fegato. Poi immagino avrà un consumo quanto mai contenuto, forse minimo, di bevande alcoliche, no? Soprattutto quando affronta queste lunghe imprese, importanti imprese, quindi le cose importanti credo che le debba fare anche per il suo profilo professionale, vero? Per proteggere il fegato. Giovanni, confermi? Ma sì, beh, ovviamente in barca comunque diciamo la fortuna che mentre navigo, se non altro mentre navigo la vita è molto sana perché comunque si mangia cose molto semplici, si mangia poco, ovviamente non ci sono alcolici. Comunque ci si muove, si fanno degli sforzi, per cui direi che la dieta è sicuramente ottima, nel senso che la semplicità secondo me nel cibo fa molto bene alla fine, perché poi io me ne rendo conto che quando sono in mezzo al mare sto meglio. E quando scendi? Beh, quando scendi è più difficile, no? Sì, le tentazioni ci sono. Un ristorante dove comunque mangi bene, condito, il primo, il secondo, eccetera, non è uguale. Certo. Senti Giovanni, vuoi approfittare del professor Colombo? Hai una domanda da fare? Noi oggi in modo particolare parleremo delle malattie del fegato e parleremo di epatiti, parleremo anche di epatite A, quella alimentare, ma soprattutto ci focalizzeremo sull'epatite B e sull'epatite C. Ma in ogni caso, tante volte si parla di fegato grasso, oppure si pensa che qualche dolorino più o meno localizzato in zona del fegato ci avverte che il nostro fegato è un po' sotto pressione. Hai una domanda per il professor Colombo? Che già che è qui lo facciamo lavorare, no? Ne approfittiamo. Ah sì, i sintomi per cui uno si deve preoccupare. Bravo Giovanni. Professor Colombo. Domanda importante, dottoressa. Il fegato gode di un'ampia riserva funzionale e può perdere 2/3 della sua composizione anatomica senza dare all'individuo alcun sintomo. Questo è un ovvio vantaggio, cioè ci fa sopravvivere a degli insulti tremendi, sì. Ma è anche un grande svantaggio perché ci lascia aggredire in modo subdolo da varie malattie che possono impiegare 20-30 anni a raggiungere il bersaglio, cioè di mettere in ginocchio la residua funzione del fegato, e a quel punto compaiono i sintomi. I sintomi più importanti sono la colorazione gialla della cute o delle sclere, l'itterizia, sì. Le urine scure accompagnate da feci chiara e di solito la stanchezza o la difficoltà a sostenere degli sforzi che fino a poco tempo prima riuscivamo a sostenere. Occasionalmente un prurito intenso e quasi mai il dolore. Le persone pensano che il dolore sia rivelatore della malattia di fegato, e invece... il dolore nel quadrante destro è spesso rivelatore eventualmente di malattie del colon o della colicisti. Giovanni, è stato bravo il professor Colombo, vero? Bravissimo. Preciso. Senti, tu adesso dove te ne andrai? Io adesso vado a fare il Fastnet, che è una regata che parte dall'Inghilterra, e quindi devo andare a prendere la barca che è in Francia, per farla lì. E noi ti seguiremo. Beh, grazie. Guarda, che tutte le volte che sentiamo parlare di te ci si allarga il cuore. Grazie Giovanni per le grandi soddisfazioni che ci dai e per essere grazie intervenuto. Buona giornata Giovanni Soldini. Noi continuiamo e come vi anticipavo oggi parleremo delle malattie che colpiscono il fegato. Sono malattie legate a stili di vita e anche a comportamenti a rischio, ma come il professor Colombo ha appena sottolineato sono spesso subdole, asintomatiche, per questo possono essere anche diagnosticate in ritardo quando la salute di questo organo è già compromessa. Professore, credo quindi che il primo obiettivo anche di questa nostra trasmissione sia informare e sensibilizzare le persone ad adottare comportamenti corretti. Partiamo da qui. Cosa è importante sapere fare per mantenere il nostro fegato sano e proteggerlo dalle malattie serie come le epatiti, di cui parleremo, la cirrosi o il tumore? Allora, le epatiti virali sono malattie comunicabili e sono divise in due grandi categorie: le epatiti che si acquisiscono consumando alimenti infetti, l'epatite virale A, sì, contro la quale c'è fortunatamente un sicuro ed efficace vaccino, che sì, è consigliabile a chi ritiene di esporsi a questo rischio per ragioni di stile di vita o perché no anche professionali, se si reca per lavoro o per turismo in zone endemiche, cioè ad elevato tasso di presenza di questo virus nella popolazione e negli alimenti. Oppure le epatiti trasmesse con il contagio mediante sangue, che noi definiamo parenterali, perché bisogna attraversare la parete della cute per infettarsi. Sì. Sono le epatite virale B e C. Hanno una certa differenza. L'epatite virale B si trasmette facilmente col sesso, l'epatite C è difficile. Sì. Sono tutte e due trasmesse da strumenti sporchi del sangue di un paziente portatore. E quindi oggi, grazie alla tecnologia, disponiamo di strumenti per medicina domiciliare e ospedaliera non riciclabili a gettare, e quindi abbiamo creato una barriera. Ma fino a 30-40 anni fa era facilissimo infettarsi con gli aghi riciclati, con le siringhe di vetro, bisturi e quant'altro. Poi naturalmente sono delle procedure rischiose, questi benedetti tatuaggi, piercing, non sono ovviamente condotti in ambiente sterile né da persone francamente che hanno la cultura per prevenire il contagio, e quindi sono un azzardo. E poi naturalmente nelle zone poverissime del mondo, dove non si screena, dove non si studia il sangue donato, se si viene trasfusi in quelle zone si può ancora contrarre l'epatite trasfusionale. Da noi in Italia il rischio è virtualmente zero, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, Giappone, nel mondo industrializzato. Esiste poi un problema che è quello dei pazienti che accedono frequentemente a cure ospedaliere, dove noi facciamo di tutto per eliminare il rischio di trasmettere i virus, però oggettivamente rimane una piccola probabilità di contaminare i nostri pazienti con strumenti di procedure invasive. Ed è molto difficile raggiungere lo zero perché richiederebbe un impiego, uno sforzo che è praticamente inarrivabile nel quotidiano gestire dei problemi medici. Bene, allora io invito gli amici da casa a mettersi in contatto con noi all'824 0024, se ascoltando il professor Colombo che ci ha fornito tanti spunti, vi è venuto un dubbio, magari riguarda un vostro comportamento potenzialmente a rischio. Vi invito a chiamarci anche se avete fatto degli esami, alcuni valori magari sono un po' fuori norma. Se siete malati di epatite o siete portatori sani, chiamateci, perché abbiamo oggi veramente a disposizione un grandissimo esperto che qui per aiutarci a capire l'importanza della prevenzione, ma soprattutto è anche pronto ad aggiornarci sulle novità in campo terapeutico e sugli orientamenti della ricerca. Basta fare un numero verde, 824 0024. Una mela al giorno. Siamo quello che mangiamo, lo sappiamo e le ricerche lo dimostrano ampiamente, ma non basta, perché la nostra salute è condizionata anche dall'ambiente in cui viviamo. E questa relazione è ben fotografata dalla prima edizione del rapporto Osserva Salute Ambiente, realizzata dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha proprio sede presso l'Università Cattolica di Roma, ed è coordinato dal professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Bentornato, direi. Grazie. Professore, aria, rifiuti e radiazioni, questi sono gli elementi che condizionano la salute del nostro ambiente che voi avete studiato e monitorato, ma credo che prima di fare un po' il quadro della situazione sia importante e doveroso una premessa. L'ambiente non ha confini, insomma l'aria della Lombardia condiziona anche quella della Toscana e questo vale anche per l'acqua, i rifiuti e le radiazioni. Esatto, è proprio per questo che c'è bisogno di un coordinamento tra le regioni, cosa che in questo momento noi abbiamo constatato non esserci. Non solo, ma diciamo a quelle tre matrici, come le chiamiamo noi, che ha detto lei, aggiungerei anche l'acqua, e l'acqua è un altro proprio degli elementi tipici che scorrono i fiumi e le acque tra diverse regioni, quindi se non si mettono d'accordo tra di loro le conseguenze sulla salute vanno ben al di là dei propri confini. Professor Ricciardi, noi ci sentiamo puntualmente con l'Osserva Salute, invece l'Osserva Salute Ambiente ha sicuramente delle peculiarità specifiche rispetto al rapporto che siamo soliti presentare. Sì, noi abbiamo deciso dopo 8 anni di Osserva Salute di fare anche questo approfondimento sull'ambiente, perché ci siamo reso conto che nel nostro paese, ecco, l'ambiente e la salute non si parlano, cioè le organizzazioni che tutelano l'ambiente, sì, lo tutelano nel senso che controllano quando lo fanno, la qualità dell'acqua, diciamo come vengono smaltiti i rifiuti, ma non danno informazioni ai cittadini sull'impatto di queste cose sulla salute, salute che invece è affidata, come sappiamo tutti, al Servizio Sanitario Nazionale. E inoltre abbiamo anche constatato che se per tanti anni con Osserva Salute abbiamo visto che c'è un netto gradiente tra centro-nord, o meglio tra nord e centro-sud per la salute, cioè con ottime situazioni in alcune regioni del nord e pessime, come stiamo vedendo in questi giorni, in molte regioni del sud, questo non vale per l'ambiente, perché di fatto non c'è nessuna regione che possa prendere un bel 10 e lode, diciamo, sulla pagella. Faccio l'esempio per esempio della Lombardia, che è una regione che gestisce ottimamente i propri rifiuti ma è molto problematica sull'acqua, oppure la provincia autonoma di Bolzano, che gestisce bene tutto però ha problemi di benzene. Quindi ecco, bisogna, e noi questo stimoliamo, raccordarsi per far sì che la salute dei cittadini non venga danneggiata da questi elementi. Ma la situazione venga considerata in toto e si trovino delle strategie. Esatto, perché il problema è proprio questo. Non so se i cittadini ricordano, sicuramente non quelli più giovani, ma un po' di anni fa ci fu un referendum, era l'epoca dei referendum, in cui cui la competenza sull'ambiente fu sottratta alle aziende sanitarie locali, e questo ha avuto l'effetto per tanti anni di fatto di privare le aziende sanitarie locali di un compito importante, perché lei capisce bene che quando si vive in un ambiente inquinato sotto tutti i punti di vista, la salute è quella che ne paga le conseguenze. E oggi le ASL sono di fatto completamente sprovviste di strumenti per proteggere la salute dei cittadini, a volte non hanno neanche le informazioni. Sentivo che in questo momento per esempio il Golfo di Napoli è fortemente inquinato, sappiamo che c'è una stagione balneare in corso, ma i cittadini fanno normalmente i bagni senza che nessuno dica loro quali rischi corrono. Ecco, questi sono alcuni degli esempi che noi nel futuro vorremmo evitare. Le criticità più forti quali sono però, professor Ricciardi? Sono quelle che sono abbastanza conosciute, a cui però, ecco, ripeto, non è possibile dare un dimensionamento in termini di salute. C'è tutta l'area della pianura padana che ha un'area fortemente inquinata, perché sappiamo che le condizioni così climatiche e le condizioni diciamo dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento industriale, e quindi direi che per tutta l'area del nord e in particolare quella della pianura padana è l'aria. Nel nord-est è l'acqua, diciamo, per esempio il Veneto è la regione che dà più deroghe all'acqua potabile, significa che di fatto l'acqua non è pienamente rispondente ai requisiti che la Commissione europea ci impone, e però diciamo vengono elevati per legge. Nel sud è il grandissimo problema, come sappiamo tutti, dei rifiuti, e poi c'è in generale un problema di in qualche modo centraline. Sappiamo che le centraline di fatto in alcune regioni non ci sono o sono talmente poche che non possono dare informazioni. Quindi direi, ecco, noi con questo rapporto non vogliamo, ripeto, come al solito, dare pagelle a nessuno, però vogliamo stimolare l'attenzione su questo argomento, perché poi alla fine si vive di più o di meno anche in funzione di questo ambiente. Professor Ricciardi, io la ringrazio per il suo lavoro e per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Pronto soccorso. Fegato, se volete parlarne con noi, 800-24-0024, scopriremo insieme quali sono i nemici di questo organo unico, direi, proprio nel senso pieno del termine. In linea con noi abbiamo il professor Massimo Colombo. Professore, ci sono già tante telefonate, tanti messaggi, io darei subito la parola a Cristina che ci chiama da Bologna. Buongiorno Cristina. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, tutto bene? Ma sì, direi proprio tutto bene. Adesso che posso parlare, togliermi questo dubbio tramite i suoi ospiti, la ringrazio per l'opportunità. Posso parlare e dire direttamente... Ma certo Cristina, il professor Colombo è qua che aspetta la sua domanda. Allora, l'anno scorso, io ho una figlia di 11 anni, l'anno scorso ho avuto un anno particolarmente difficile a scuola a causa di un paio di compagnucce che non erano proprio simpaticissime con lei, chiamiamolo un po' di mobbing, per cui lei accusava un gran mal di stomaco e abbiamo fatto una serie di accertamenti. Facendo l'ecografia addominale praticamente è stato riscontrato un'epatomegalia, cioè un fegato ingrossato. Sì. La pediatra non gli ha dato alcuna importanza. Ora però io mi sono chiesta, la bimba è un pochino sovrappeso, uno poi dei motivi per cui veniva presa in giro, però effettivamente lei non è, cioè io la seguo attentamente nella dieta, frutta e verdura non mancano, sì, ha appetito, però non è che viva di insaccati, patatine, certo. Ha capito? Quindi io mi sono chiesta, intanto, se era una cosa, adesso che c'ha questo fegato ingrossato, se può rientrare, cioè se il volume può ritornare a quello diciamo normale. Sì. E poi se la questione del carattere, perché lei tende a non sbollire mai le arrabbiature, cioè lei è una che accumula parecchio e non sbollisce mai, per cui io sinceramente... Per cui ha avuto questo anno un po' difficile con le compagne. Sì, e quindi secondo me una delle cause più che alimentare è quella, perché insomma io non la vedo poi così sovrappeso, a meno che... non si accumuli tutto lì, ma sì, certo, forse anche quello. Certo. Quindi Cristina, volumi, lo sa che poi con il tempo, nel giro di un paio d'anni, si muovono un pochino di più e le ragazzine si sfilano, così, no? Sì, ma io quello che le ripeto... Quindi poi, diventerà uno splendido cigno. Ma intanto sentiamo il professor Colombo che cosa ci può dire a riguardo. Professore. Sì, buongiorno signora. Allora, il carattere non conta nulla se non quanto può predisporre magari all'ansia e al desiderio di cibo, ma sulla cosiddetta malattia di fegato di sua figlia non conta affatto. La malattia di fegato di sua figlia è completamente reversibile, cioè il fegato può guarire perfettamente perché, se ho compreso bene, si tratta di steatosi, cioè un fegato che è ingrandito di volume perché ha accumulato del grasso nelle cellule e il sovrappeso corporeo è responsabile. Quindi bisogna lavorare con l'aiuto magari non solo di una dieta opportuna, ma anche di un appoggio psicologico, per far consumare a questa giovane ragazza una dieta congrua, e guardi che quello che conta è introdurre qualunque tipo di cibo, purché in quantità moderate, che fornisca quindi calorie modeste, sì, e stimolare il consumo con l'esercizio fisico, che è poi un ovvio segreto. Sì, è una ricetta che funziona sempre, Cristina. Io penso proprio che alla vigilia delle vacanze questo possa essere proprio una buona occasione per una remise en forme, direi a 360 gradi, della sua bambina. Ci faccia sapere a settembre, l'aspettiamo. Ok, intanto la ringrazio ancora, perché grazie a una delle sue trasmissioni ho scoperto di essere celiaca. Il mio medico brancolava nel buio, ma ascoltando lei e i suoi ospiti ho fatto il test e ho scoperto di esserlo. Bene. Quindi la ringrazio ancora. Grazie a lei, Cristina, buone vacanze, ci faccia sapere della sua bambina. E intanto, professore, noi oggi parliamo di epatite B e di epatite C, anche se ce ne sono molti tipi, vero? Ce ne sono virali, tossiche, un mondo di epatiti. Di danni epatici. L'epatite intesa come infiammazione, morte delle cellule, è un attimo più ristretto, e i leader sono sicuramente i famosi virus dell'epatite. Ecco, ma professore, io vorrei capire una cosa, perché negli ultimi anni i casi di infezione acuta da virus C e da virus B sono diminuiti sensibilmente. Questa è una buona notizia, no? Evidentemente gli interventi di igiene pubblica sono serviti. Ma contemporaneamente però vengono diagnosticati nuovi malati e persone che erano malate e non lo sapevano. Esattamente così, c'è una specie di vecchia epidemia sommersa che è stata costruita tra gli anni 50 e 70 con il diffondersi delle trasfusioni che allora erano infette, l'uso di procedure mediche che contagiavano, le famose siringhe, bisturi, diciamo, riciclati, sì, e una certa incoscienza rispetto al rischio della trasmissione sessuale, dell'epatite B soprattutto, e un pochino anche dell'epatite C. Siccome la infezione non causa sintomi, nessuno si è accorto di essersi infettato, e noi li scopriamo progressivamente negli anni a seguire, a mano che sono diventati disponibili test nel siero per identificare i portatori, e a mano che i medici sono diventati sempre più coscienti di quanto è frequente il fenomeno in Italia, e poi a mano che le stesse persone sono state rese edotte di questo rischio dalle trasmissioni divulgative come la sua o dalla stampa divulgativa, e anche dal contatto con i propri medici. C'era però, scusi, sì, dottoressa, una piccola precisazione. Sì. È chiaro che, avendo applicato degli interventi di igiene pubblica molto efficaci, come lo screening dei donatori di sangue, l'abolizione delle siringhe, degli strumenti riciclati, e avere naturalmente dato delle sagge linee guida di comportamento sessuale quando è scoppiata la pandemia dell'HIV, dell'AIDS, noi abbiamo fatto crollare la trasmissione dei casi acuti di epatite B e C. Attualmente si registra un lieve incremento di casi acuti di epatite B trasmessa per via sessuale nel contatto che ha la popolazione d'età maggiore italiana che non è stata trattata col vaccino. Sì, perché il vaccino era partito da quelli nati nel 91, no? Non solo, nel 91 il vaccino abbracciò i neonati e i dodicenni, sì, quindi persone che oggi hanno 29 anni. Dai 30 anni in su, la popolazione italiana che non ha mai visto il virus dell'epatite B, perché non si è esposta col sesso o in famiglia o ai vecchi strumenti, è potenzialmente contagiabile. E l'arrivo in Italia di molti migranti da aree geografiche ad elevata endemia di epatite virale B, come l'Asia o l'Africa, espone al contagio sessuale di epatite B questa fetta di italiani maturi anziani. E l'epatite acuta contratta in età anziana o adulta avanzata ha un decorso clinico impegnativo. Non di rado questi pazienti vengono ricoverati con delle epatiti molto importanti. Fortunatamente l'epatite contratta in età adulta guarisce sempre. Ecco, infatti il vaccino lo si fa proprio ai neonati e ai giovani perché hanno maggior rischio di cronicizzare loro. Ecco. Però un po' di epatite acuta B è risorta negli ultimi 5 anni per via sessuale. Per via sessuale. Eccoci, siamo tornati insieme. Jenny da Ancona, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, gentilmente, una semplice informazione. Ho ospitato una persona che mi ha avvisato di essere affetta di epatite C. Sì. E dopo qualche giorno mi ha chiesto un prestito, un tagliaunghie perché l'aveva dimenticato. Io dopo, non sapendo come disinfettarlo, l'ho buttato perché non volevo correre rischi. Volevo chiedere, cioè, eventualmente, come ci si comporta, cioè come si può disinfettare appunto. Certo, e questo, grazie Jenny, e questo ci dà modo anche di parlare delle persone che vivono magari in famiglia con una persona affetta da epatite C, perché sono già arrivati diversi messaggi, per cui professor Colombo, prendendo spunto da Jenny, possiamo dare anche delle regole. Sì, sicuramente questi strumenti pungenti di igiene personale sono teoricamente capaci di trasmettere l'infezione, però non generiamo allarmismo. Negli studi fatti nei nostri ospedali si è dimostrato che solo un medico o un infermiere ogni 20 di quelli che si pungono con un ago, diciamo utilizzato per trattare un paziente con epatite C, a sua volta contrae l'infezione. Quindi la puntura e cose assimilabili potenzialmente trasmettono, ma con una bassa frequenza. È sufficiente prendere questo strumento e farlo bollire per mezz'oretta, visto che tanto non si rovina perché dovrebbe essere di acciaio, e lei l'ha sterilizzato. Ad esempio Franco ci fa una domanda, devo dire una domanda ricorrente perché l'ho ritrovata. Il bacio nell'epatite in genere è veicolo di trasmissione o possiamo stare tranquilli? Professor Colombo, è solo il sangue? Perché lei mi ha fatto una domanda scientificamente plausibile, lei mi ha detto pericolo, vuol dire che se 1000 persone baciano tutti i giorni 1000 portatori di epatite B e non hanno anticorpi protettivi, la possibilità che qualcuno di loro si infetti perché ha delle ferite, si perde un po' di sangue, si contamina, esiste, questo è stato ben documentato. Quindi teoricamente il bacio incrementa il pericolo, cioè il rischio, la probabilità che uno si infetti, però nella pratica poi, diciamo, è probabilmente qualcosa di poco influente, è difficile ricondurre a questo una trasmissione. L'epatite virale C invece ha una trasmissione per via sessuale, se assimiliamo il bacio appunto a un comportamento sessuale, molto bassa di suo, e quindi con il bacio probabilmente queste probabilità sono ancora inferiori. Andiamo, anzi restiamo a Milano, ci chiama Filippo, 800 24 00 24. Buongiorno Filippo e benvenuto. Buongiorno, grazie. Senta, visto che avete parlato di fegato e attività fisica, perché certe volte... Sì, perché abbiamo parlato del fegato di Giovanni Soldini, che direi che ne ha e di attività fisica ne fa parecchia. Esatto. E perché talvolta quando si fa un'attività fisica un po' impegnativa, tipo per esempio una corsa, eccetera, eccetera, fa male... Si dice fa male il fegato, diciamo quella zona, è il fegato che fa male o è qualche cos'altro? E dopo, magari un certo periodo di tempo, continuando sull'attività fisica, passa anche. Che cosa che porta a questo? Grazie Filippo. Professor Colombo. Il fegato è avvolto da una sottile pellicola, che lei può comparare alla pellicola che avvolge l'uovo, per intenderci, che si chiama glissoniana, che è molto sensibile alla distensione. Tutto ciò che produce un improvviso ingrossamento del fegato genera un senso di dolore. Ora, durante lo sforzo fisico aumenta in modo considerevole l'afflusso di sangue nell'organo e quindi è verosimile che possa essere questo il meccanismo che può dare questa sensazione. Professore, però l'attività fisica fa bene anche al nostro fegato. Alla grande, perché demolisce gli accumuli di calorie che vengono inavvertitamente prodotti quando si consuma una dieta troppo ricca o di grassi o di zuccheri, certo. Professore, quindi fa bene l'attività fisica? È consigliata anche alle persone che sono malate di epatite, che hanno un'epatite cronica? Beh, qui io farei un distinguo. Sì. In linea di principio, il vero paziente di epatite cronica, e qui devo fare, scusi, un altro distinguo, certo, tra tutti i portatori cronici di epatite virale B e C, c'è un numero significativo, probabilmente la metà dei casi, che ha il virus che si moltiplica dentro le cellule epatiche, ma in realtà ha un fegato globalmente vicino alla norma, quindi non malato. Sì. Queste persone è difficile che abbiano disturbi. Viceversa, c'è una fetta consistente di pazienti cronicamente infettati che hanno sviluppato un danno strutturale del fegato che si può chiamare epatite cronica o cirrosi e quindi di varia intensità clinica. Queste persone molto probabilmente soffrono più di altri lo sforzo fisico, non riescono a mantenere dei ritmi di lavoro, di performance fisica pari a quelli che avevano quando il fegato era più sano, non era infetto, altri addirittura soffrono di astenia, cioè di una situazione clinica di cronica stanchezza. Quindi è chiaro che per questa categoria specifica di infetti cronici l'esercizio fisico può rappresentare un problema e quindi non essere tollerato come da altri. Professore, io tornerei alle persone che sono malate e non sanno di esserlo, perché quest'anno lo slogan della Giornata Mondiale dell'Epatite diceva «Sono io il numero 12», proprio per incrementare la consapevolezza di un dato ai più sconosciuto, e perché nel mondo si stima che una persona su 12 ha l'epatite B o l'epatite C, ma non lo sa. E questo devo dire che crea un po' di ansia, perché chi non lo sa, no, quindi non viene diagnosticato e non si cura, e può in alcuni casi infettare anche. Certamente. Innanzitutto direi per l'Italia io vedo uno scenario più rilassante, io userei la parola il numero 30, sì, perché noi dobbiamo ritenere che circa il 2% degli italiani è portatore cronico di virus dell'epatite C, attenzione, non di anticorpo. Mm. Quando lei ha l'anticorpo è venuto a contatto col virus, sì, se resta il virus tu hai l'infezione cronica, ma se il virus non c'è più tu hai fatto una forma acuta guarita, hai l'anticorpo, ma non sei infetto. Quindi ci sono circa 1 milione e 2 di italiani che sono portatori cronici del virus e poi c'è uno 0,8%, quindi insomma 500.000 di italiani che è portatore cronico di virus dell'epatite B. Quindi per me ce n'è uno ogni 30 di italiani, sì, che ha questo problema. In realtà molte di queste persone sono confinati nelle gruppi di età maggiore, perché la grande infezione, tassi di infezione risalgono agli anni 50, 60, 70, quindi queste persone oggi sono sessantenni, settantenni, ottantenni, cinquantenni, vedi? Insomma, quindi è molto legata a questi gruppi d'età maggiore. E qui, se vuole, si spiega perché il Ministero della Salute ha sempre esitato a lanciare una campagna di screening tra la gente normale, della popolazione generale, perché c'è la probabilità di reclutare molte persone anziane che poi non possono essere curate e che comunque, se sono anziane, stanno bene, probabilmente hanno una forma minore di malattia. E si spreca magari poi molta energia per risolvere i casi dubbi in persone di età di mezzo o giovani, con risultati dubbi dello screening, perché lo screening genera falsi positivi e falsi negativi. Quindi insomma, nella popolazione normale come noi, insomma, c'è un certo tasso di infezione cronica, io direi nel loro insieme le due epatiti 3%. Il medico deve molto saggiamente, secondo me, cercare di riconoscere se tu hai delle stigmate, hai dei fattori che ti fanno ritenere possibile di essere un portatore. Se hai avuto in famiglia dei malati di fegato, se hai fatto trasfusioni, se hai fatto droga in vena, se hai fatto tatuaggi, piercing, se hai avuto una vita sessuale, diciamo, poco frenata, se hai subito molti contatti ospedalieri per ragioni mediche, se hai viaggiato molto in zone endemiche. E con questo, diciamo, con questa ricerca che gli inglesi definiscono case finding, cioè la ricerca proprio del caso, il medico del Sistema Sanitario Nazionale può cominciare a studiare i propri pazienti che stanno bene per il rischio di epatite quando identifica questi segnali che così sottendono una certa probabilità di avere l'epatite B o C. E quindi bisogna, dal canto nostro, comunque continuare a investire nella cultura della prevenzione. In linea con noi abbiamo Luca Barbarossa. Luca, ciao! Ciao a tutti. Luca Barbarossa è qui con noi perché è stato testimonial di uno spot radiofonico dell'EPAC, questa associazione nata per far crescere e diffondere proprio l'educazione alla prevenzione e alla ricerca sull'epatite C. E Luca, tu ti sei prestato come testimonial proprio per sensibilizzare, direi, una larga fascia della popolazione, i giovani a cui tu parli e che ti seguono nei tuoi concerti. A me piace molto quando un uomo di spettacolo si fa portavoce di messaggi di prevenzione, perché arrivano, Luca. Beh, ma bravo, insomma, sono contenta. Mi hanno chiesto in prestito la voce e, beh, mi sembrava una causa interessante. Quello della prevenzione è una battaglia che si combatte sulle epatite. Non lo sentiamo più, Luca. Magari proviamo a richiamarlo. Comunque, professor Colombo, nelle scuole, nei ragazzi, bisogna comunque continuare a sottolineare quanto sia importante adottare dei comportamenti non a rischio, perché è lì che poi cadiamo, no? Dottoressa, io concordo, io credo che la partita si gioca nell'educazione e l'educazione si impartisce nei primi anni della scolarità, quindi nel quadro dell'educazione civica occorre erogare anche un'educazione sessuale e di comportamento rispetto ai rischi che l'uso di droghe o un sesso insicuro può determinare, e direi a quel punto si dovrebbe incominciare anche a parlare di alcol, perché bisogna educare i giovani ai rischi dell'alcol. Allora, se voi vi siete in qualche modo riconosciuti nel profilo descritto dal professor Colombo, e quindi comportamenti a rischio, un familiare malato di fegato, trasfusioni, tatuaggi, anche se alcuni messaggi, professor Colombo, sono arrivati dicendo non è giusto così generalizzare coi tatuatori, perché ci sono persone, tatuatori assolutamente capaci e ligi nell'eseguire tutte le procedure, però sicuramente almeno la letteratura scientifica individua nei piercing e nei tatuaggi un probabile fattore di rischio, giusto? Posso fare un commento? Certo, dottoressa. Deve. Lei sa che noi in ospedale, insomma, perché ho scienza professionale, profondiamo molte energie nel limitare il rischio dei contagi con ogni essere biologico, virus, epatite in testa, e nonostante questo in ospedali di fantastica organizzazione sanitaria sono capitati diversi episodi, gli inglesi li definiscono outbreaks, di contagio di molte decine di pazienti in unità sofisticate di chirurgia o di terapia ematologica, legate al fatto che infermieri specializzati o medici avevano accesso a delle ampolle comuni per prelevare un determinato farmaco, di solito un anticoagulante piuttosto, sì, che. Bene, anche in queste strutture super sofisticate, italiane, francesi, inglesi, americane, si sono verificate delle devastanti epidemie che hanno avuto anche tanti casi di morte per forma fulminante. Allora io mi chiedo, se in un ambiente dove esiste per definizione una cultura della prevenzione dei contagi virali, dove ci sono fior di professionisti a cominciare dall'infermiera a finire dal medico che si battono per evitarli, nonostante questo accadono degli episodi così gravi, mi chiedo come possiamo limitare il rischio in strutture che non sono state disegnate con questo livello di prevenzione e di sicurezza, come la bottega artigianale o la piccola attività improprio di chi fa tatuaggi o piercing. Io francamente, insomma, mi rifiuto di credere che lì si possa essere protetti o al sicuro da questo rischio. Siamo di nuovo insieme, abbiamo ripescato Luca Barbarossa. Luca, ti avevamo perso. Sì, ci dobbiamo sbrigare perché la rete telefonica non è delle migliori dove mi trovo, quindi ogni tanto avvia il segnale. Comunque stavamo parlando di prevenzione sulle epatiti e non solo. Ho prestato la voce a questo spot, non è uno spot cantato, è parlato, ma hanno chiesto il mio aiuto e l'ho dato volentieri. Insomma, mi sembra un argomento, quello della prevenzione, che riguarda questa ed altre malattie, sulla quale si combatte una battaglia, non solo nei paesi sviluppati, anche in quelli in via di sviluppo. È assolutamente importante, quindi grazie per il tuo impegno. Tra l'altro tu sei sempre impegnatissimo, perché non fai una tournée ma una doppia tournée in questo periodo, quindi noi dicevamo, no, lo stile di vita, mi raccomando, in tournée mangia bene, muoviti bene adeguatamente, ti vedremo con Neri Marco Re in Attenti a quei due. vero? Sì, siamo in tournée insieme, abbiamo un'alimentazione controllata, molta frutta, molta verdura, ci vestiamo leggeri come consigliano gli esperti, mi fa sempre ridere questa cosa degli esperti, dice l'estate vestitevi leggeri, ma c'è qualcuno che in gira col cappotto. E insomma, comunque sì, alimentazione controllata perché dobbiamo arrivare al 28 agosto al Teatro Romano di Ostia Antica, poi facciamo il 29 la Versiliana, Marina di Pietrasanta. E io verrò a vederti perché sarò lì, magnifico. Ecco, sventolerò la cosa, porto anche prevenzione, attenzione. Senti, però tu siamo sei... il 30 agosto a Macerata, allo Sferisterio di Macerata, insomma, quindi è una mini ripresa del nostro tour invernale. In contemporanea con la tournée estiva tua, come sì, con i miei concerti. Con i tuoi concerti. Sì, che porto in giro per l'Italia. Va bene, e porta in giro come sempre quindi questo messaggio di prevenzione. Grazie Luca Barbarossa. Grazie a voi, scusate la linea. Ciao. Ciao, a presto. Patrizio da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Eccola, Patrizio. Buongiorno, io volevo raccontare velocemente, brevemente la mia esperienza e poi fare una domanda al professor Colombo. Sì. Allora, mi raccomando, un po' rapidino, Patrizio. Sì, sì. Allora, nel 1980 ho contratto l'infezione dell'epatite B con l'antigeno Australia. Dopodiché non ho mai avuto, diciamo, l'insorgenza della malattia, ho avuto sempre tutti i valori sotto a norma. Dopo ogni anno ho fatto sempre il controllo, da alcuni anni, 4-5 anni a questa parte, le analisi che faccio sistematicamente mi segnalano che sono tornato ad essere negativo. Volevo chiedere al professore se era normale e poi fare una domanda su mio figlio. Mio figlio di 8 anni è stato vaccinato appena nato, non ha nessun tipo di problema. Se esistono anche i vaccini per l'epatite C adesso, tutto qui. Grazie Patrizio, bellissime domande. Professor Colombo. Allora, il figlio vaccinato, quindi è protetto per tutta la vita, non esistono ancora vaccini per l'epatite C perché nonostante 20 anni di studi virus non si presta, siamo ancora lontani. È una sfida ancora difficile da vincere, ce l'auguriamo sia possibile, ma al momento siamo ancora lontani. Viceversa, per quanto riguarda la storia clinica di questo signore, lui è stato fortunato, come lo sono, diciamo, un certo piccolo numero di portatori cronici, di soggetti con epatite virale B che non si complica, i cosiddetti portatori come diciamo noi inattivi, che lentamente dopo 20-30 anni di questa infezione senza sintomi e soprattutto senza danni costruiti nel fegato, spontaneamente eliminano il virus, non di rado fanno l'anticorpo protettivo e così, insomma, beati loro, guariscono da soli. Ogni tanto riusciamo a ottenere lo stesso risultato, ma forse ne parliamo dopo, con delle cure ad hoc con gli antivirali. Ecco, io vorrei solamente rispondere ad un SMS. Avere l'antigene B positivo vuol dire avere gli anticorpi dell'epatite B? No, allora, se una persona nel sangue circola l'HBsAg o antigeni di superficie, lui è cronicamente infettato dal virus dell'epatite B. Sì. Poi, rivolgendosi ad uno specialista, e ogni grande città italiana ha eccellenti specialisti in merito, può definire lo stato clinico, cioè se coesiste una malattia del fegato che si vede bene o che si vede male, ma ci può essere. E oggi abbiamo degli strumenti semplici che sono la visita clinica, l'esame di sangue e il fibroscan che ti racconta se il fegato è indurito o meno, eventualmente la biopsia epatica che chiude il percorso di diagnosi con una definizione certa dello stato di salute di quel fegato. E quindi questi sono gli esami. Andiamo a Pietro dalla provincia di Cremona per poi poter parlare di terapia. Pietro, buongiorno. Ecco, buongiorno Nicoletta. Io vorrei fare qualche domanda al professore. Cioè, io sono un portatore sano di epatite C, tanto è vero che mia moglie non ce l'ha. Sono un maratoneta, peso 60 kg e sono alto 1,73. È uno stile di vita impeccabile perché mangio sempre in bianco. E vorrei sapere se si può guarire di questo mio... Dall'epatite. Sì, sì, Pietro, la sto sentendo. Se c'è una se può guarire oppure? Perché io vorrei fare al donatore di sangue, ma purtroppo non lo posso fare perché c'ho l'epatite. Grazie, Pietro. Le sue domande finiscono qui. Posso passare la parola al professor Colombo? Sì. Allora, è molto importante capire come questo signore può avere contratto l'epatite C. Non di rado non lo sanno, ma l'hanno contratta in famiglia perché magari vi era qualche familiare infetto in un'epoca in cui questi test non esistevano. Perché è importante? Perché nella vita nostra di pazienti cronicamente infettati capita spesso che nei primi 20-30 anni si rimanga portatori senza transaminasi alterati di virus, quindi molto fortunati quando si contrae l'infezione da piccoli, sì. Tollera l'infezione. Però un certo numero di queste persone, maturando negli anni, corre il rischio di sviluppare poi la malattia di fegato. No, sì. Niente di drammatico, è sempre un processo lento, ben identificabile e, a mio giudizio, ben curabile. Quindi questo ascoltatore, rivolgendosi allo specialista, poi lui abita a Pavia e Pavia è un centro di malattie infettive molto famoso in Italia, che cura, sì, bene l'epatite C, ovviamente. Deve sottoporsi a degli esami solidi come la ecografia del fegato, il fibroscan, sì, del fegato, la visita accurata, la determinare il tipo genetico di virus, perché vi sono dei virus che guariscono richiedendo cure di un anno a dei tassi del 50%, il genotipo 1, il genotipo 4, ma vi sono dei genotipi, il 2 e il 3, che con cure più brevi a base di interferone di 6 mesi hanno dei tassi di guarigione che sfiorano l'80-90%, quindi deve ben considerare l'ipotesi di curarsi anche se sta bene, anche se i trasaminasi sono normali, per evitare magari che negli anni a venire possa complicarsi un po' il fegato, consultando uno specialista, e a Pavia ne ha diversi. Professore, quindi lei ha iniziato rispondendo al nostro ascoltatore a parlare di terapie, le terapie ci sono, naturalmente il paziente va selezionato per scegliere la terapia più adeguata. Assolutamente, siccome la cura si basa su una iniezione settimanale di interferone e delle pillole per via orale che sono dei chemioterapici antivirali, diciamo generalmente sopportati piuttosto male dai nostri pazienti, siccome queste terapie non guariscono tutti e sono faticose, occorre selezionare di solito i più giovani e con le malattie più significative. Sì. Sono i primi da trattare. Qui può anche capitare che qualche individuo magari nasconda la malattia, nel senso che sembra bello così alla visita, e magari con esami come il fibroscan e la biopsia poi si documenti la presenza di un po' di fibrosi nel fegato, perché questa è una malattia che di disturbi non ne dà quasi mai, che viene occasionalmente identificata durante screening fatte per altre ragioni o perché il medico intelligentemente ha percepito che questo individuo poteva essere portatore di epatite. E convincere una persona che sta bene, che non ha disturbi, a curarsi con farmaci faticosi soprattutto, è un'impresa ardua, sì, difficile. Sì, certo. Senta, professore, io vorrei chiudere questa trasmissione con lei, poi torneremo sicuramente nei prossimi mesi e torniamo a parlare di epatite, vorremmo parlare anche di cirrosi, di tumore del fegato, ma insomma non si può fare tutto in un'ora. Ecco, con un suo messaggio riguardo alla terapia, mi auguro un messaggio positivo, di speranza, perché i progressi ci sono. Assolutamente, e separerei i due scenari, se permette. Nell'epatite, certo, virale C eravamo un po' disperati 15 anni fa, non riuscivamo a curare i pazienti con malattia significativa, guarivamo pochi pazienti con poca malattia epatica. Oggi l'uso saggio della combinazione interferone-ribavirina nelle mani di persone veramente esperte e che sanno informare il paziente a sopportare un po' le fatiche della cura e che sanno intervenire a rimediare ai disturbi che le cure producono, permette di guarire la metà dei portatori di genotipo 1, che è il più diffuso in Italia, sì, e fino all'80-90% dei genotipi 2 e 3, che sono, diciamo, il secondo gruppo per frequenza in Italia, sì, anche in presenza di cirrosi. Quindi è stato un passo in avanti. Formidabile. Sì, clinicamente in avanti. L'epatite virale B ha un difetto, difficilmente la guariamo, perché non riusciamo ad eliminarla se non in casi piuttosto rari. Però riusciamo sempre a sopprimerla o con cure limitate di interferone o in chi non risponde all'interferone o non può essere curato con l'interferone oppure, diciamo, non vuole perché l'interferone, sì, è un po' faticoso. È un po' pesante. Esistono delle terapie orali, si chiamano analoghi nucleosidici o nucleostidici, che somministrati quotidianamente, sopprimono in modo permanente il virus ed impediscono all'epatite cronica di evolvere in cirrosi e alla cirrosi di evolvere nelle sue più serie conseguenze. Non solo, permette di trapiantare persone con forme molto evolute e disperate di fegato che una volta non erano trapiantabili per il troppo virus che avevano nel sangue. Quindi passi in avanti clamorosi, le terapie oggi ci sono a disposizione, naturalmente non bisogna mai abbassare la guardia, la prevenzione rimane l'arma migliore per sconfiggere queste malattie. Professor Colombo, la salute la ringrazio davvero molto. Grazie mille a lei. Buona giornata, professore, ci sentiamo presto. Io volevo parlare col professor Torello Lotti. Buongiorno, professore, è in linea con noi, ordinario di dermatologia all'Università di Firenze. Volevo parlare con lei di zanzare, ma allora io mi faccio ancora pizzicare stanotte da queste zanzare che mi stanno devastando e domani noi ci sentiamo per dare consigli ai nostri ascoltatori. Ritorna, professore? Benissimo. Grazie. Benissimo. Allora, appuntamento a domani col professor Torello Lotti. Parleremo di zanzare, ma non solo, anche di cronobiologia. Vi aspetto. Buona giornata. Essere e benessere.